Eccoci, ritornati, grandi, grandi. Siamo in assenza, come potete sentire, qui Denever al microfono con il compare Gringo. Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutti. Rieccoci dopo due settimane di assenza. No, una settimana di assenza. Due, boh, mi due. Sto confondendo. È il caldo. È il caldo, sì. È il caldo. Qui nella nostra regia fa... Abbiamo perso uno per strada. Esatto, quest'oggi purtroppo è venuto a mancare... Al suo microfono. Al suo microfono, ne purtroppo. Ne dà il triste annuncio. Esatto, ne danno il triste annuncio ai loro colleghi. Briccobaldo, ecco. Che ha pensato bene con il caldo di... Latitare. Insomma, i cristiani si facciano il segno della croce, gli altri si tocchino, perché dov'è? Non si sa mai. I cristiani si possono pure toccare, no? Sì. No, diventa ciechi se si toccano. Attenzione. No, non toccatevi. Diventate ciechi. Hai visto che è uscito la proposta per salvare i bambini dalla masturbazione? No, la camicia di forza per bambini, ecco. Cioè che li lega quando vanno a dormire, li legano, così poi non rischiano di masturbarsi. Mi sembra proprio la migliore cosa, proprio pedagogica. Tempi bui, avanza il progresso della scienza, è questo, la camicia di forza contro le seghe. Bene, cari amici. Comunque siamo in due, ma diciamo anche meno, perché il sottoscritto Gringo ha dei problemi, diciamo quasi menomato. Ecco, diciamo perché siamo partiti in ritardo, perché il povero Gringo con una mano alquanto gonfia. Offesa. Esatto. Che spiega ecco, la tua indole da osso. Esatto, ero andato, diciamo, a sgraffignare un po' di miele alle api e giustamente sono stato punito severamente alla mano. Potevo rimanere offeso, come diceva il grande Rezzonico, ma sono rimasto offeso. Sei rimasto offeso anche perché con quella mano devi aggeggiare sul mixer e ti vedo alquanto in difficoltà con quella mano gonfia. Esatto. Sono un po' in difficoltà, ma ce la faremo anche. C'ha una palla al posto della mano. Ecco, sì, cioè, esatto. Winnie the Pooh stava meglio. Esatto. Bene, anche l'orso Yogi stava meglio. Ecco, c'aveva pure il cappello e la cravatta, poi, tra l'altro. Niente, puntata così, con pochi argomenti, visto che è estate. In realtà l'estate... Ci sono. Sì. L'estate di sicuro chiama gavettoni. Infatti la prossima CM Mona, sì. Ormai sono fissato io con la CM Mona. Vorrei c'è la CM Mona ogni mese. La prossima Critical Mass Fiorentina, il 25 luglio, sarà a tema gavettoni. Allora preparatevi, portateli. Buste piene d'acqua. Esatto, buste, bonze di, non so se si capisce. Sì, qualche pistole ad acqua, i super liquidator. Te li ricordi i super liquidator? Grande, che cosa bella. Grande ricordo della nostra infanzia. Così degli ci siamo anni già 80-90. Ci siamo già traditi, ecco, già 80-90. Esatto, più sui 90. Però io, ecco, l'ho sempre voluto, quasi quasi lo compro. Ora che posso, lo posso comprare. Esatto, esatto. E mi compro quello proprio, quello super. Che c'ha il che contenitore da 5 litri con... Esatto. Che esce a pressione che ti buca la faccia. Sì, esatto, tipo. Esatto. E neanche l'idrante dei Vigili del Fuoco. Esatto. Bene, voglio bene. Quello e andrò alla Critical Mass con il Super Liquidator. Esatto, quindi occhio a Denever per la prossima Critical Mass di gavettoni. Bene, e niente, che facciamo? Mandiamo un pezzaccio? e poi parliamo un po' degli argomenti che ci sono in canna. Vai, allietiamo i nostri radioascoltatori con un bel pezzo dedicato alla nostra amata radio. Una canzone d'amore per la radio, che adesso il nostro buon gringo, come potete immaginare, con la zampa offesa. Con la zampa, quindi ci vorrà insomma qualche minuto prima riesca. Sta cercando di far partire, però essendo la mano così gonfia, clicca 15 tasti in una volta. Eccolo, è partito. Vi lasciamo alla musica, a dopo. Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Eccoci ritornati dopo questa dedica Mettiamo un... Ah, uno spottino Wombat. Mi suggerivi, caro gringo, esatto, uno spottino suggerivo Wombat. Suggerivo uno spottino Wombat che è sempre lì in agguato. Radio Wombat. Da sempre. Eccoci. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, si diceva, un po' di notizie e via. Dici, caro Denever. Allora, vabbè, in questi giorni, come sapete, c'è il Tour de France. Che, eccolo, se può interessare a qualcuno. Cioè, sì, io sono abbastanza uno di Tour de France. Puoi aggiungere qualcosa alla mia ignoranza? Come sai, se ne parla perché di biciclette bisogna parlare. No, però non stimiamo tantissimo i dopati a pedali. Ecco, sì. Immagino che dal nostro punto di vista sia, ecco... Però è sempre bello invece vedere quello che c'è attorno alla partecipazione che c'è in Francia per la bicicletta, che per chi non lo sapesse, in Francia la bicicletta viene chiamata la piccola regina. La piccola regina, non lo sapevo. Sì, so proprio... Ripeti? Petite Reine. Ecco, non come lo dici bene, come lo dici bene. Sempre... Non l'ho mai studiato il francese, però questo mi fa da assist per la nuova notizia. Cioè, Parigi si propone di diventare la capitale mondiale delle biciclette, quindi diventare la città bike friendly migliore del mondo, battendo anche Copenaghen. E attualmente sarebbe Copenaghen? Sarebbero, se la battono ogni anno fra Copenaghen e Amsterdam. Ok, sì. E quindi, però, se ci pensi, per come è fatta Parigi, non è banale. Ecco, sì. Le dimensioni e anche come si è evoluto urbanisticamente, non so come... Però è da notare che si pongono questo obiettivo, cosa che in Italia nessuno si pone. Non se ne parla proprio, è un tra tabù. L'altro, rispetto agli altri paesi europei, noi abbiamo il doppio del parco auto, cioè abbiamo due volte le macchine che... c'ha in media qualunque altro paese europeo. Quindi negli altri paesi europei è anche più facile, esatto, andare avanti con il discorso bicicletta. Esatto, sì. Esatto. Pensa ad esempio nei mesi passati, non so se l'avevamo già detto, ma Amsterdam ha deciso definitivamente di chiudere il centro alle automobili, quindi le automobili saranno totalmente bandite dal centro. Tanti hanno detto, vabbè, e che ci vuole? Amsterdam, e che ci vuole? Però, ecco... Amsterdam non ha deciso ieri di passare, esatto, alle biciclette. Esatto. C'è un progetto di lunga durata. Esatto. Politico, esatto, anche urbanistico. Esatto. Cioè, c'è stata una politica di disincentivare l'uso delle macchine, quindi... Se vai a vedere quanto costa un parcheggio in centro ad Amsterdam per una macchina, costa una fraccata di soldi, esatto, anche poco tempo, quindi ti disincentivano ad arrivare in centro in macchina o comunque andare in città in macchina, e poi comunque ci sono dei trasporti pubblici molto efficienti e poi appunto c'è la bicicletta. Esatto, ci sono una serie di motivi per cui si è potuti nel tempo passare all'uso della bicicletta, esatto, in maniera... È una manovra a tenaglia, no? Esatto, sì, per escludere... Da un lato si penalizza l'auto, dall'altro si spinge su... Si spinge sui mezzi pubblici, sull'uso della bicicletta, ecco, esatto, sì. Con il miglioramento della qualità della vita, immagino anche della qualità dell'aria. A voi. Ora Amsterdam c'ha un climino un po' così, però il clima di Amsterdam. Invece, come reagiscono in Italia alla nascita di una nuova ciclabile? Come? Abbiamo qualche notizia? Eh sì, perché a Roma dovete sapere che si sono decisi a fare le ciclabili. E in particolare hanno fatto questa ciclabile sulla... Allora, cercano di fare la ciclabile sulla Tuscolana, ma vengono pesantemente ostacolati dai cittadini del posto. Ma la grande conquista è stata la ciclabile sulla Nomentana. Eccoci. Nuova ciclabile sulla Nomentana. Se guardate le foto e cercate su internet, è anche fatta, come si dice, a Firenze, a Modino. C'è lo spartitraffico che protegge la ciclabile dall'invasione di carreggiata. Di carreggiata. E cioè, sembra di cemento, pietra, comunque fatto bene. Ma la cosa che fa riflettere è la reazione delle persone, di alcuni che stanno lì sul posto, è stata quella di dipingere loro gli stop. Praticamente cosa c'è? C'è questo tizio che ha un garage che taglia la ciclabile. Piuttosto che fermarsi lui quando esce dal garage, ha pensato bene di scrivere stop per terra. Questo per fare. Sulla ciclabile. Sulla ciclabile. Quindi pretende che sia la ciclabile a adattarsi ai suoi comodi. Ovvio, certo. Sì. Allora, i ciclisti si fermano, ma le macchine no, perché lo stop è solo per le bici. È solo per le bici, certo. Sono le bici che danno così fastidio. Lui può tranquillamente occupare la ciclabile, esatto, per poi immettersi sulla strada con calma, poi esatto, quando gli altri automobilisti gli daranno, esatto, però le bici si devono fermare, gli altri automobilisti può pure dare la precedenza, le bici, ecco, non fanno parte della un'ottima strada. Proprio strategia, proprio sì. La dice lunga sulla sì, sul sicuro. Nostro stato culturale delle bici, esatto, ecco, quindi esatto. Anni luce da Amsterdam, dalla e da quella, esatto, sì. E senti, ma poi mi dicevi che hai riletto questa notizia, questa nuova notizia, che però non è una novità, cioè è stata una conferma. Sì, ho letto questa qualche giorno fa, ora non ricordo esattamente quando. Ho letto una notizia su Pantani che mi sembrava avesse avuto anche un discreto eco, diciamo, un po' mediatico. E sì, era una conferma sul fatto che erano state truccate le prime analisi, quelle che poi diedero il via al declino di Pantani, che poi lo portarono alla morte, diciamo, perché poi è stata tutta una concausa, tutta una serie di eventi che l'hanno portato poi alla morte. Cioè, c'è un po' di alone di mistero ancora, anche se molte cose sono state chiarite dalle indagini sulla morte di Pantani. Sì, questo è diciamo il il contrappasso di quando la bicicletta diventa uno strumento di denaro, no? Nel senso che si è scoperto che c'erano delle forti scommesse, delle grosse cifre di denaro in ballo, e chi aveva fatto queste scommesse sembra sia stata la camorra, e non voleva pagare la vittoria ormai certa di Pantani, esatto, per cui fece uno scambio di provette o falsificò ricattando il medico che faceva le analisi, facendo risultare Pantani, attenzione, non dopato, ma con un un voto di memoria, con l'ematocrito più alto del normale. Sì, esatto. E quindi, che questo non significa doping, significa rischio di trombosi, per cui da notare anche come fecero passare la notizia i media al tempo, lo allontanarono come se avessero trovato delle sostanze nel sangue. In realtà avevano trovato che aveva il sangue più coagulato, che non vuol dire che fosse per forza necessariamente dopato, anche se lui poi di costituzione sua aveva un emocromo alto, ematocrito. Dobbiamo trovare anche un medico che ci affianchi, ecco, sì, dobbiamo trovare un medico.

invece gli sembrò disinibito, sciocco. Dipingimi anche trasparente come una parola, ma dipingimi per sempre come effetto di scirocco. No, non è un concetto importante che poi non torno, non sarò né semestrale né facile da ammaestrare. Andando a braccetto con il levante col mezzogiorno, che voglio strappare il mare e lanciarlo contro il maestrale. Io voglio soffiare, gonfiare, annaffiare ogni candela, rubare foglie di fuoco lasciando un tronco di cera. Io quella sera rubai solo per te la rosa più ventosa dal prato salato dei rosai. L'aurora, staccando un pedala a sud-est, usandolo come pennello, dipinse la storia ai grandi marinai. Ora si racconta che c'è un vento che porta una mappa con la rotta giusta per uscire a non tornare mai. Via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade d'aria andando verso Utopia. Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove. E via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade in alto verso rotta ignota, man. E via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove sei. Ah, ecco, ci siamo. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Eccoci. Eccoci di nuovo. Tornati. Tornati per voi. Su Radio Wombat, in punta di pedale. Ricordiamolo per chi magari si fosse sintonizzato non adesso. Non riconosce le voci. E non riconosce la voce di Gringo di Denver, anche perché non sente la oppure voce. Sente la mancanza di Bricco. Il ma buon Bricco Baldo. Era un bravo ragazzo. Era un bravo ragazzo, sì. E purtroppo, come se si ne dice, vanno sempre. Esatto, sono sempre i migliori che se ne vanno e noi non possiamo fare altro che andare avanti anche. The show must go on. The show must go on. Bene, stiamo dicendo tutti i luoghi comuni del caso. Vabbè, abbiamo tirato fuori tutta una sfilza di robe. Abbiamo parlato del Tour de France, proprio accennato. Parliamo anche di un altro Giro d'Italia, perché c'è ancora un Giro d'Italia che dà un po' di soddisfazione. Dà parecchie soddisfazioni. Come è stato oscurato, sono stati, vabbè, non tanto in realtà, però i campionati mondiali femminili di calcio. Esatto. Nessuno dice che adesso è in corsa il Giro d'Italia rosa, quindi doppiamente rosa visto che il colore del Giro d'Italia è rosa, il Giro d'Italia femminile, che sta dando parecchio spettacolo. Eccoci. E sinceramente lo preferisco al Giro d'Italia maschile, perché conta di più il gesto atletico. Esatto. Si vede di più, c'è meno il macismo dei colleghi maschi. Sì. E poi c'è stata questa scena abbastanza, un po' strappalacrime, dobbiamo dire. C'era questa ciclista che stava per vincere la tappa. Ora, perdonatemi, ha un nome difficile da pronunciare e provaci perché no, con il francese si è andato benino. Allora devo andare a rileggermelo, tu mi obblighi ad andare a rileggere, ecco, quindi perdiamo. Dici cosa intanto cosa ha fatto? È piccina, era lì, stava faticando in cima alla salita, stava per arrivare al traguardo, vede il traguardo e lancia un urlo e la mette le mani al cielo, però ancora non era arrivata al traguardo. Ai. E pensava di essere da sola. È stata superata di gran carriera da altre due, addirittura due, che arrivavano in velocità clamorosa. Avevano fatto la salita a fuoco proprio. E lei, poverina, vedi, dall'urlo di gioia, di vittoria, si trasforma in un no, in un urlo di Munch, tipo no! Ma gliel'hanno strappato, ma per questione di centimetri. E, addirittura, quindi era proprio... Sì, una cosa malefica proprio. Ora devo... Cioè, malefica, non l'hanno mica fatta apposta, cioè loro erano in corsa. D'altronde erano... E lei non si è accorta appunto di essere... Di essere inseguita. Di essere inseguita con questa velocità. Però è anche vero che era un po' stanchina, cioè si vedeva che erano proprio le ultime pedalate, quindi no, anche se si forte che sono... Le dici, non so se... Dici che avrebbe, insomma, stata in difficoltà comunque, anche se non allentava, non diciamo. Sarebbe riuscito a rispondere all'attacco. All'attacco, se, sì, secondo sì, me. Sì. Perché loro proprio, si vede in questo filmato, arrivano come dei treni, proprio bom bom bom bom. La superano, ma la fanno volare, cioè sembra quella cosa tipo cartoni animati. Però lei si era impegnata tanto a vincere la tappa, quindi... Dispiace, al di là della scenetta comica, però dispiace. A livello, certo, certo. E ora vediamo, io ancora sto cercando di trovare il nome. Ecco, stai cercando oppure lo stai ripetendo a memoria ma non ti... No, niente, sto spulciando internet. Nulla. Ma oggi... Non si trova, oggi... No, il problema è la tana del Wombat. La tana del Wombat è... sottoterra, come potete immaginare, il cellulare non prende bene, esatto. Che come sapete i Wombat di Sani ho ascoltato di a provare la sua nuova bicicletta praticamente ha vissuto un'odissea, cioè se è uscito per Milano per andare a fare un giro, e Milano sta facendo dei grandi passi in avanti sulla mobilità ciclista. Esatto, in realtà lui molto... andava fuori Milano, quindi non in centro a Milano, andava credo verso le Prealpi, ora sì, non sono molto, mi sembra, ha fatto questo, andato a vedere su internet, ha fatto questo simpatico racconto scritto di tutto quello che gli è capitato cercando di arrivare tutto intero a casa. Sì. Gente che gli taglia la strada, macchine che lo superano per tagliargli subito poi la strada, sì. E varie altre vicissitudini. Però lui, la cosa bella che dice alla fine, dice: nonostante tutto è bellissimo andare in bici. E noi non possiamo che essere d'accordo. Siamo d'accordissimo. Sì. Caro Gringo, ma tu sei stato un pioniere della pieghevole, o sbaglio? Sì, diciamo un pioniere nel nostro giro, insomma. Non un pioniere in assoluto. Non l'hai inventato tu. Non l'ho inventata. Pensavo io, purtroppo, anche tu. Se... Comunque sì, io ho utilizzato la pieghevole e per chi ha problemi di spostamento devo dire che è un'ottima soluzione per smezzare il viaggio con la macchina, e quindi se qualcuno va in centro a Firenze oppure in qualsiasi altra città caotica, oppure è lontano dal suo punto di arrivo, la bici pieghevole in macchina è un buon compromesso. Ti ho chiesto questo assist perché sembra che la regione toscana, è uscita la notizia che la dava già come fatta su Repubblica, il finanziamento della regione toscana per l'acquisto di una pieghevole abbinata ha un abbonamento del treno. Abbonamento del treno. Quindi se hai un abbonamento del treno, non ho capito bene se come funziona, se hai un abbonamento del treno ricevi un bonus con cui comprare una pieghevole. Cosa sì, molto interessante. E purtroppo ancora la regione non ha fatto uscire i regolamenti attuativi, non ho capito bene. Quindi ancora sì, è tutto in aria. Però c'è, è già... sappiate che molto probabilmente è esatto, sì, ci sarà uno sconto, quindi potrete, se avete un abbonamento, credo forse serva l'abbonamento annuale. Molto probabilmente sì, per dimostrare che sei un... Anche perché sui treni, diciamo sui treni regionali o comunque a bassa percorrenza, quasi sempre c'è uno scompartimento per le bici, sì, in cima o in fondo, però non è detto che... No, il vantaggio della pieghevole è che non devi pagare il biglietto per la bici. Esatto, cosa che non... Cosa di cui io sono esperto, perché... Spesso nei miei girovagare in Toscana a volte devo tornare in treno, preferisco tornare in treno una volta compiuto la tua missione esatto, da cilista. L'ultima volta sono arrivato fino a Cecina, ero morto, sono salito per miracolo sul treno che mi ha riportato a casa, e devi pagare 3 euro per la bicicletta. Il biglietto della bicicletta dura 24 ore. Esatto. Vale dopo dire che nelle 24 ore quel biglietto continua a essere valido. Ok, dopo si autodistrugge e prende fuoco. Esatto. Tenerlo lontano dalla bicicletta. Ma scusa, una domanda tecnica proprio. Ma quando arriva il controllore, è valido che tu dia il biglietto al posto della bici? Come fa il controllore a dire che quello è il biglietto della bici? Dovrebbe essere la bici che gli dà il biglietto al controllore? Effettivamente, al di là della battuta, lo scomparto... nel mio caso, se sono vestito con la tutina attillata da ciclista... è un po'... passi come genitore, diciamo... Esatto. No, però gli scompartimenti per bici c'hanno un seggiolino dove tu puoi stare a fianco alla tua amata bicicletta, cosa che io faccio sempre, non la lascio mai sola sul treno. Non sia mai che poi si senta sola, esatto. Oppure prenda freddo. Esatto. Quindi in genere si mostra la bici, si mostra il biglietto e via. Io devo dire, questa differenza fra la bici pieghevole e quella normale non la sapevo. La pieghevole è comodissima, l'ho scoperta. Io devo dire, ho anche utilizzato la bici pieghevole per andare al lavoro per un periodo e sono arrivato sempre puntuale al lavoro. Ora, è ovvio che se sei abituato alla bici da corsa, come nel mio caso, i primi tempi sulla pieghevole ti sembra andare piano. Però esatto. Magicamente la magia della bici fa sì che tu arrivi comunque in orario. Bravo, la magia della bici, perché esatto. La bici è un mix proprio di tante cose, tra cui la magia. Esatto. Per alcuni non esiste, per gli scienziati non esiste, ma per la bici esiste. Per la bici esiste. Sul sellino della bici c'è sempre magia. Ma grande citazione, Benedetto. Sì. Sei ispirato tra lingue straniere, citazioni colte. Il caldo, caro gringo. Il caldo che non mi so rende... se è farina del tuo sacco. No, è farina di grani antichi. Di grani antichi, è una sapienza antica. Che e ti è arrivata così. Esatto, improvvisamente. Che bene, dici, bene. Bricco? Scusa. Bricco, lo so che ti manca, lo so che ti manca il buon vecchio Bricco. Mannaggia. Pace all'anima sua. Ma che era bravo, la parola gli mancava. Gli mancava la parola, esatto. Era così intelligente. Senti, ma mandiamo un altro pezzaccio, vai. Dovete capire che questa puntata di In Punta di Pedale... soffre il caldo. Esatto, soffre il caldo. Siamo, diciamo, agli sgoccioli. Possiamo dire che un altro programma di nostri amici, Radio Contado, ha fatto l'ultima puntata della stagione. Salutiamo i nostri amici. Hanno fatto anche una gran festa. A Frittole c'è stata una gran festa. Speriamo non di frittole con questo caldo. Le frittole fanno male. Salutiamo Mulo, Camicia e la Dama che ci lasciano per un po', ma che... Camicia un po' meno. No, Camicia sì, un po' sta meno. Sta un po' antipatico Camicia. Sì, esatto. No, è sempre Mulo e Camicia. Sì, esatto, che ora ultimamente erano diventati poltrone e sofà, cambiato il... Grande Camicia, grande Mulo e soprattutto grandissima Dama. Grande Dama. speriamo di ritrovarli alla ripresa dei programmi. E nulla, noi. Che superano anche loro l'estate calda. Che superano, sì. Potrebbero sciogliersi e non riapparire mai più. In quel di frittole. Esatto, in quel di frittole e far parte della. Andare a rimpinguare le riserve d'acqua e poi. Fare la compostiera come Bricco. Bricco è finito in una compostiera. Esatto, sì, in una compostiera. Loro però mi sa che sono. Si sciolgono più si che decompostano. Sono più ghiaccioli. Esatto, sono più ghiaccioli. Ecco, sì, sì, sì. Via, pezzaccio e poi vi salutiamo. Hey kids, we've had a great start to the new year, and let's not make tonight any different. I don't want to catch you roaming the hallways or spiking a punch like last year. We have a very special treat for you tonight. Our hometown heroes and local battle of the bands winner, Rocket Baby Doll! Yes, we are live here at Teenville High School, where there was a homecoming dance tonight, which ended abruptly due to a gas leak inside the school gymnasium. Joining me now is one of the few students who was able to escape the school before law enforcement came in and barricaded all of the exits. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Eccoci. Bene, carissimi. Eccoci, rientrati in diretta. Sono le 7:36, caro Denever. Abbiamo sforato di ben 6 minuti, che forse diventeranno 7. No, forse no. Forse no. Allora, bene, io mi affretto a salutare. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. E ascoltatrici. E ascoltatrici. O chiunque sia in ascolto, indipendentemente dalla sua attribuzione. Esatto, esatto. Quello. Bene. Bene, vi salutiamo. Alla prossima. Alla prossima, fra 2 settimane. Fra 2 settimane. Ciao, gringo. Ciao a tutti. Ciao. Keep blowing.